Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ieri fu chiamato d'urgenza al termine di Melog. Dovetti precipitarmi nel mio studio, dove accadde un increscioso incidente. Ci fu un trapelamento del liquame dal bagno del vicino del piano superiore, a ciò che dovetti provvedere dopo aver visto trasudare come fosse una sacra icona il controsoffitto in truciolato o non so qual altro materiale, cartongesso marino o via dicendo, del mio bagnetto. Intervenni prontamente chiamando una squadra di soccorso che fecero un orrendo squarcio nel mio controsoffitto, verificarono il danno, chiusero la falla, dopodiché passò altra mezza giornata per rintracciare qualcuno con le chiavi d'appartamento di sopra. Ciò mi procurò danno, dolore e grande avvilimento estetico. Poi andai dal mio commercialista e ebbi il conteggio esatto di ciò che io dovrei, come tanti altri millanti italiani, pagare di tasse, di IMU e di aggiunte. Dopodiché mi resi conto della rata del mutuo che ho preso per la ristrutturazione che incombeva sulla mia testa come una mannaia. Dopodiché mi accorsi che pure una tapparella si era rotta e, nonostante fosse in garanzia, mi fu detto che era impossibile sostituirla se non a spese mie. Dopodiché aprì la finestra e sentii un orrendo odore di soffritto, di polpette, di arrostino e via dicendo. Nulla di male, di testuzzica d'appetito, sì, certo, ma non certo alle 8 di mattina, l'arrosto alle 8 di mattina, eppure c'è qualcuno che fa il ragù la mattina. Insomma, la deduzione che ho tratto è che sì, la casa, il bene rifugio per eccellenza degli italiani, il sogno di ogni persona. Noi viviamo per costruirci una casa, noi viviamo per avere una casa, noi sogniamo una casa, noi sogniamo la casa dei nostri sogni. Com'è la casa dei nostri sogni? Proprio come noi la vorremmo. Chi la vuole nera, chi la vuole rossa, chi la vuole bianca, chi la vuole grande, chi la vuole in campagna, chi la vuole in città, chi la vuole un nido d'amore, chi la vuole grande, spaziosa, senza mobili. Insomma, noi tutta la vita viviamo per farci una cuccia, per essere come dei lumaconi che non hanno la loro casetta ambulante, e siamo lumache erranti alla ricerca della nostra casa. E adesso che ce l'abbiamo, che qualcuno l'ha trovata, qualcuno ha avuto l'illusione di poterci mettere le mani sopra, ci si accorge che la casa è un gran peso, è un grande onere. Se ce l'hai ma non ci vivi, devi affittarla. Se l'affitto è un grande problema, averci a che fare con degli inquilini, anche perché oggi, come molti si illudevano, dovete dichiarare fino all'ultimo centesimo di quello che voi ricevete. Questo è giusto, questo è, questo sì, ma però dopo gli inquilini. Avete a che fare con gli inquilini, vi chiamano di notte che si rompe qualcosa, dovete inseguirli per avere i vostri soldi, dovete chiamare le truppe cammellate a soldare serial killer per levarveli di casa quando avete diritto di riprendervi la vostra casa, perché magari deve andare darci un figlio. E se la casa in cui vivete è vostra, è quella che è il nido d'amore, dovete ogni giorno averci a che fare con un'eternità di problemi, con dei vicini di casa e con delle rogne, con dei cornicioni che si staccano nell'altra ala del palazzo in cui vivete, di cui comunque dovete contribuire. Insomma, alla fine siamo arrivati a una deduzione, che aprire la porta di casa oggi è l'inizio di una serie di angustie che si accentuano, che aumentano col passare del tempo. Sia che voi dovete comprarvela, dovete cercarvela, dovete aprire un mutuo, cosa impossibile, potervela acquistare. Oggi la casa, insomma, dal grande sogno è diventata il grande incubo. Non sarebbe forse meglio non avere una casa? Non sarebbe forse meglio vivere liberi? Non sarebbe forse meglio, non so, essere come uccellini che hanno un nido che si disfà quando viene la stagione dell'immigrazione, o vivere sotto un ponte? 800 24 0024. Io vorrei vedere morto il mio vicino di casa. È un rompiballe, ha una voce che sembra un energumeno. Oppure tagliare solo la lingua. Tagliare in due la lingua, come i serpenti. Se possibile, se puoi eliminare il cane davanti a casa mia che abbaia sempre e il neonato della mia vicina di casa, grazie. Vorrei far fuori il mio vicino di casa. Ha un vocione che è un cavernicolo. Però l'unico problema è quando gli tagli la testa, ho paura che questo vada avanti a parlare. 800 24 00 24. Cominciamo a toccare il problema riportandovi alla memoria alcuni dei punti dolenti legati alla casa. Non vogliamo qui demolire il grande sogno, non vogliamo creare problemi al mercato immobiliare che già probabilmente ne ha tanti. Vogliamo riflettere sul fatto di questo improvviso capovolgimento di ottica. Ciò che noi pensavamo, amavamo, accarezzavamo, consideravamo il punto più alto, più sublime di ogni nostro sforzo, ma non sforzo legato a un periodo della nostra vita, sforzo di tutta la vita. Già da quando siamo bambini pensiamo: ah, che bello, un domani me ne andrò a una casa mia, potrò portare a casa tutti i giocattoli che voglio quando sei bambino, tutte le ragazze che voglio quando sei più grande, senza aspettare i genitori che escano, che entrano, ti lasciano gli spazi liberi, le zone finestre. Poi finalmente arriva un momento che lambisci questa cosa, ti sembra giù, sembra vicino, sembra quasi di averlo, è il tuo primo appartamentino da scapolo di cui paghi l'affitto con i tuoi sudati risparmi, con i primi lavori che fai. Poi improvvisamente ti fidanzi, ti sposi e comincia il problema ad allargarsi, il nido per la famiglia, si ritorna nuovamente ai problemi che si avevano quando si era bambini, la casa è grande, non è abbastanza grande, la casa va allargata, la casa non è più tua, la casa viene espropriata, vengono i figli, insomma la casa diventa un inferno. Perché? Perché la casa è una fonte di estreme, di infinite angustie, non è soltanto il luogo del rifugio rispetto al mondo che ci aggredisce, non è il luogo dove chiudiamo la porta e finalmente siamo soli, siamo circondati dai nostri affetti. Sì, è questo, è anche questo, ma è anche un'infinità di altre cose, un'infinità di rapporti costretti che hai con un'infinità di altre persone, e di maestranze, e di legali, di esperti, riunioni di condominio, problemi di cose da pagare, problemi di disfacimento, perché la casa è qualcosa, è un bene transeunte. La casa non è fatta di acciaio temperato, la casa è fatta di calcina, è fatta di mattoni, è fatta di cemento armato, è fatta di intonaco, è fatta appunto di cartongesso, è fatta di parquet, è fatta di piastrelle, è fatta di tutti oggetti che via via vanno cambiati nel tempo, periodicamente vanno rimessi e sostituiti, e quindi la casa diventa un inferno. Volevo lasciare un messaggio per quanto riguarda le agenzie di intermediazioni sulle case. I costi che affrontano sia i venditori che gli acquirenti per quanto riguarda le agenzie sono molto elevati e la professionalità non è dello stesso livello. Quindi è proprio una questione di costi, perché molto molto incide nella trattativa dell'acquisto delle case. Altro tema che noi toccammo, vi stiamo riportando tutti alla memoria, nel frattempo vi prego, chiamate all'800 24 00 24, semplicemente allucinate il termine casa. Quali sono le prime cose che vengono in mente? Sogno irrealizzabile, desiderio sublime, fonte di infinite preoccupazioni, la casa, le case. Provate a ereditare una casa, un'eredità non richiesta, un'eredità di cui non aveste nessun bisogno, un'eredità che magari non vi aspettavate, oh, che bello ereditato, no, una cosa terrificante. Inizia un problema di successione infinito, poi una casa che magari in una città che non è la vostra, lontana, non sapete che farne, dovete pulirla, dovete svuotarla, dovete chiamare persone, pagare persone, e poi che ne facciamo? L'affittiamo, agenzie, trovate le persone a cui l'affittare, potete affittarla, e poi inizia un problema lontano, vi chiama la vecchia nel cuore della notte perché lì si è otturato il bidet, dovete intervenire, e voi siete in un'altra città lontanissima, comunque dovete fare qualcosa, perché avete senso del dovere. Dicevo prima, avete sentito gli agenti immobiliari, le agenzie immobiliari di cui abbiamo spesso parlato, che abbiamo spesso denigrato, sono gli angeli della felicità, coloro che girano nelle grandi città sui loro grandi scooteroni, con i loro vestiti da pantaloni attillati, con quelle belle scarpe gialle appuntite, con quelle camicie a colletti altissime, con quelle cravatte con il nodo immenso, sorridenti, vi suonano, vi bussano, vi portano cataloghi, vi portano verso la felicità. E poi anche questa felicità naturalmente è molto limitata. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io volevo fare una considerazione di tipo sentimentale. Io ho una casa, ho avuto una moglie da cui sono fortunatamente divorziato, e ho una barca di cui invece sono ancora felicemente proprietario. Ah, ho capito. Consideriamo da un punto di vista economico. Per la moglie e per i tempi tecnici di utilizzazione mi sarebbe convenuta la ballerina. Per la barca mi converrebbe sicuramente una barca a nolo e per la casa mi converrebbe l'albergo. Ciò nonostante sono felice di avere la casa, di avere la barca e tutto compreso, anche di aver avuto una moglie, per quanto sia andata a finire in quel modo. quindi non ha nessun problema? Mi scusi? Non ha nessun problema? No, non ho nessun problema. Certo, c'è una serie di rompimenti di scatole. Potrebbe andare a vivere dentro la barca. Qualcuno lo fa. Guardi che è un'idea che ho spesso e volentieri, solo che è un po' troppo piccola per permettermi di viverci decentemente, però per 3 o 4 mesi l'anno lo faccio. Quindi lei, diciamo, dimostra che in realtà tutto quello che sto dicendo è privo di senso, si può essere felice lo stesso con tutte le angustie e i problemi che dà la casa. Io mi rendo conto che questo è un problema legato probabilmente a una circostanza molto particolare e spero molto passeggera. Soltanto un anno fa parlavamo ancora della casa come qualcosa che aveva il fantastico senso di piacere di ogni cosa irraggiungibile. Gian Pietro. Sì, salve. Io illustro molto brevemente la mia situazione. Io sono in affitto da più di 10 anni e i problemi che ho avuto stando in affitto penso che quasi superino quelli di avere una casa di proprietà. I miei genitori hanno sempre avuto una casa di proprietà e grazie a Dio problemi quasi zero. Ovviamente a parte la classica manutenzione, ma quello sia sull'auto, sia sulla moto, sia su qualunque cosa noi decidiamo di acquistare o comunque qualunque bene decidiamo di amministrare o gestire. È normale avere dei problemi con la conduttura dell'acqua, è normale avere problemi con un impianto elettrico. Sono problemi che, come tutte le cose della vita, vanno affrontati e sistemati. Ciò non toglie che avere una casa propria oggi sia comunque anche diciamo un punto di arrivo anche per quanto riguarda una sistemazione sociale, cioè il fatto di avere comunque una casa di proprietà garantisce anche in tempi soprattutto di oggi moderni che stiamo vivendo una certa garanzia anche a livello economico, cioè il non avere comunque male che vada un tetto sulla testa, mangerò pane e acqua ma comunque non mi troverò sotto un ponte. Esatto, ma questo è il problema. Avere un tetto sulla testa e non avere risorse oggi crea, secondo me, altrettante angosce e angustie, perché il tetto sulla testa è in realtà qualcosa che quotidianamente ci toglie sempre più risorse rispetto a un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa. Avere un tetto sulla testa è una continua richiesta di attenzione, di stress psicofisico e anche di esborso in termini concreti ed economici, molto più, infinitamente più di quanto lo fosse nemmeno tanto tempo fa. Ma questo, naturalmente, noi giochiamo sul filo del paradosso, stiamo soltanto valutando e considerando quanto, su un piano emotivo, ciò che rappresentava il massimo delle aspirazioni, il massimo del modello di serenità, oggi in realtà viene sostituito come un'entità che per noi è foriera e portatrice di grande angoscia. Abbiamo al telefono Pietro, il dottor Pietro Membri, che è presidente della NACI, Associazione Nazionale Amministratori di Condominio. Buongiorno. Buongiorno. Lei è uno, probabilmente ha il polso di una situazione molto più di quanto l'abbiamo noi. Lei trova, rispetto alla sua esperienza, che stia un po' mutando l'atteggiamento dei proprietari di case, di appartamenti, rispetto il bene di investimento preferito, di maggior soddisfazione fino a qualche tempo fa da parte degli italiani? Ma diciamo che il miraggio della casa è sempre, diciamo, attivo. Io vedo che nei condomini che amministro c'è fuori molti cartelli, sì, però alcuni ogni tanto, diciamo, vengono tolti perché vengono venduti. Vuol dire che l'italiano ha nel DNA proprio il senso della proprietà, il mattone. Come ha detto prima l'ascoltatore, in realtà avere una casa dà un senso di sicurezza. Può esserci un'incertezza economica, ma avere un tetto sulla testa dà sicurezza. Però non si considerano tanti altri fattori. Voglio soltanto ricordare, non voglio creare allarmismo, il mantenere una casa, lei lo sa, ci sono le spese straordinarie, ci sono gli interventi improvvisi, ci sono le tasse che sembrano ogni giorno aumentare sempre di più, ci sono una serie di rapporti da gestire. Il proprietario rispetto al proprio inquilino quando la casa è affittata, crescono sempre più le situazioni di rischio. Questo non porta un maggiore stress da parte di chi possiede una casa? Questo è vero. Questo si è acuito poi negli ultimi anni, diciamo gli ultimi, diciamo dal 91, quando il condominio è stato investito da tutte quelle leggi che sottintendono appunto la gestione, la sicurezza, il diritto del lavoro, tutte, diciamo, situazioni di grave, diciamo, peso di formalità, di burocrazia per adempimenti, e questo stressa molto anche il proprietario. L'assemblea stessa è sempre un momento di difficoltà, perché purtroppo è un settore che non è conosciuto. Il proprietario si presta, viene, diciamo, partecipa all'assemblea, però è privo di conoscenze del diritto della proprietà, e allora si rifà a chi grida di più, e questo già è un male. Noi abbiamo proposto alle associazioni proprietari di fare delle così informazioni, di preparare i propri iscritti, cioè i proprietari, perché un amministratore che vuole amministrare bene, che è una persona trasparente, perché lei sa che è un inciso, gli amministratori in Italia sono 300.000, di cui 50.000 neanche sono quelli professionisti, che lo fanno di professione, tanto vede che c'è un serbatoio di ammortizzatore sociale, in un certo senso. Ci si rende conto però che è un lavoro che richiede sempre più specializzazione rispetto anche 10 anni fa. Ho visto una mutazione nelle riunioni di condominio notevole. Serve sempre più qualificazione, servono consulenti di tipo tecnico molto raffinati, ci sono dei lavori, dei documenti, degli incartamenti, delle documentazioni da fare che prima non erano ritenute necessarie. Ci sono delle norme di sicurezza molto più strette rispetto agli ascensori, rispetto alle parti comuni, rispetto agli impianti. Questo richiede naturalmente una dose maggiore di stress. Sentiamo Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Una cosa che volevo dire, un piccola parentesi in questo intervento che è appena stato fatto, è che gli amministratori di condominio, secondo me, oltre a tutto questo lavoro, questi incartamenti che hanno, secondo me gestiscono troppi condomini. Ci vorrebbe un amministratore più tailor made, perché le esigenze sono tante, gli inquilini tante volte magari sono ignoranti, ma non perché stupidi, sono ignoranti in materia, quindi le riunioni condominiali si riducono quasi sempre a un circo incredibile. Sì, è il momento in cui l'umanità rivela tutti i suoi aspetti e tutte le sue sfaccettature. Io avrei voluto fare un format e mettere 4 telecamere e chiamare una trasmissione riunione di condominio, secondo me fa più share dell'Isola dei Famosi. No, è vero. Innocue, tranquille signore sorridenti, candidi vecchietti, giovani coppie che vivono in un idillio d'amore, diventano delle belve scatenate. Ho visto gente tagliarsi la gola quasi, naturalmente metaforicamente, per la decisione di prendere gli zerbini omogenei. Li facciamo tutti uguali, no, ognuno può scegliere il suo zerbino. Le dico un argomento a caso. Pronto? No, ci sono. Sì. C'è gente che si taglia la gola per dire, e dicono la stessa cosa, 2 ore di riunione condominiale, si abbaiano addosso per 2 ore e dicono la stessa cosa. Però è un grande sfogatoio. Diciamo che litigare in casa e urlare in casa, c'è il rischio di fare spettacolo con tutte le persone che hanno pareti contigue. Lì c'è libertà di espressione vocale. Ma mi parli del suo caso particolare, per cui ci ha chiamato. Il mio caso praticamente è una fortuna. Del fatto che io abito in questo condominio molto particolare, che è un interno cortile, una stalla del 700 a Milano. Mm-hmm. E praticamente il suo bello è che ha un aspetto molto vecchio e lasciato andare, però dentro ci sono delle case bellissime. A un certo punto, siccome negli ultimi anni, io sono stato il primo a comprare qui dentro, negli ultimi anni si è popolato di architetti, art director, gente semifamosa, hanno deciso di dare una rinfrescata a questo condominio, ma solo estetica. Quindi cosa succede? Che hanno messo in conto, insomma, un 150.000 euro di spese, e io a un certo punto mi sono ritrovato a dover pagare parte di questa cosa. Se sono delle parti comuni, mi sembra logico. Sì. Fortunatamente però la crisi che si è abbattuta sulla mia azienda mi ha fatto vendere questa casa per risanare l'azienda, e io adesso mi trovo tranquillamente a essere un affittuario che non si deve più beccare questo tipo di spese. Quindi lei, diciamo, il segno della crisi è da proprietario passato affittuario, e si è sgravato le spese comuni di una manutenzione straordinaria, vive nella stessa casa ma con un senso di sollievo. Un senso di sollievo enorme, soprattutto per la questione delle riunioni condominiali che mi ammazzavano ogni volta. Ci va il padrone di casa, non deve andarci più lei. Sì. Non le voglio più. Questa è proprio la telefonata che mi aspettavo. È la conferma di un sentore che avevo io. A questo punto, essere proprietari con tutto che ciò ha rappresentato da sempre il sogno più estremo e più condiviso da parte degli italiani, oggi è un onere molto pesante. Francesco preferisce essere inquilino di casa sua, di cui è stato proprietario, non avere tutti gli oneri di cui non potrebbe naturalmente poi tenere conto. Buongiorno a tutti, con il video di oggi tratteremo l'IMU, la cosiddetta imposta municipale unica, che a decorrere dal 1 gennaio del 2012 va a sostituire l'ICI. Innanzitutto mi preme sottolineare che di fatto l'IMU è stata introdotta in via normativa nel decreto sul federalismo municipale del 2011. Al riguardo è opportuno che tale decreto aveva anticipato che l'IMU... Questo è il signor Stefano Setti, che su YouTube si è sentito di dover spiegare agli italiani cosa fosse l'IMU. Questo è un termine che ricorre costantemente in questi giorni. La maggior parte delle persone che io sento, ascolto, incontro, hanno volti stralunati. Dice: sono reduce da l'IMU. Essere reduce da l'IMU significa aver incontrato un disagio di cui non si conosceva l'esistenza e di cui ancora è difficile percepire gli esatti confini. Questo si aggiunge ai tanti oneri di tipo emotivo, semplicemente tipo emotivo, non voglio entrare in ambiti che non mi competono, che non saprei gestire, rispetto al possesso di una casa. Avere una casa, ripeto e sintetizzo, che fino a ieri era come l'accarezzare un sogno talmente sublime che quando si realizzava ci sembrava di toccare il cielo con un dito, oggi ci si rende conto che è una fonte di infinite angustie, tanto che paradossalmente qualcuno penserebbe che forse la cosa migliore sarebbe non avere nulla, vivere di una francescana gaiezza, tanto che un ascoltatore ci ha raccontato, aveva una bella casa a Milano, una casa d'epoca, tanto era forte il costo di manutenzione straordinaria che a un certo punto se l'è venduta e adesso è felice inquilino laddove una volta era proprietario. In fondo cosa cambia in sostanza? Si alza la mattina nello stesso posto, va a dormire nello stesso posto, gode delle stesse mura, ha lo stesso tipo di privatezza, ma è scaricato di tutta una serie di oneri. Poi la vita finisce a un certo punto e quindi non ce la possiamo mica portare dietro in un altro mondo la casa. Quindi l'importante è vivere felicemente il momento in cui uno ha percezione della propria felicità? Questa è la domanda. Eddie, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io chiamo da Vicenza e nella mia cultura, anche familiare, la casa è sempre stata molto importante. E poi io avevo casa mia, l'ho venduta perché avevo dei vicini rumorosi e il caso ha fatto sì che venisse a abitare in centro, in un vecchio palazzo dove sono da 11 anni. Adesso la mia casa e quindi seconda casa, l'inquilino che non mi paga ma però devo pagare le imposte se non faccio lo sfratto, l'appartamento dove abito in questo bel palazzo non è più tanto sicuro e quindi in fase di ristrutturazione. Sicuro in che senso? Dal punto di vista strutturale? Non sta bene, non voglio entrare nei particoli, il tetto non sta bene, il terzo piano neppure, quindi so che noi inquilini pochi rimasti non avremo vita lunga. Oggettivamente proprio questo lo immagino. Quindi bisogna fare una ristrutturazione generale. Sì, ma siccome è proprio un palazzo storico, se dovesse fare una ristrutturazione generale ci manderebbe via tutti. Sì, poi intervengono i ministeri, sì, poi, le belle diciamo arti. Diciamo che da un appartamento ne può tirare fuori tre adesso. Quindi io ho vissuto qui quasi come proprietaria, nel senso che non ho mai avuto regole, quindi sono state anche bene. Ecco, come una volta quelli che erano fortunati, che avevano gli affitti di qualche casa dei preti, che dice, io mi ricordo negli anni 70 a Roma il sogno di tutti avere qualche intrallazzo vaticano, avere in affitto una casa di un ente dei preti, dice entri, paghi poco e ci stai tutta la vita, non ti caccia nessuno. Questo era il sogno, penso più o meno accade a Vicenza qualcosa del genere, case di un ente. Non è proprio bassissimo, però adesso certo mi ha permesso il vecchio proprietario, i nuovi proprietari no, gli eredi, lui bastava che pagassimo, che non causassimo problemi, lui ci lasciava liberi, quindi ho vissuto bene, non mi sono mai sentita affittuaria, no? Ecco, essendo io ex proprietaria, diciamo. Però la situazione ora come ora, con appunto inquilino, IMU, tasse, non mi posso detrarre l'affitto, eccetera, sto pensando, visto che poi vivo con gli animali, perché mi piace molto vivere con gli animali. Di andare in una stalla anche lei, come l'ascoltatore? Anche una casa mobile, perché una stalla è difficile da trovare, perché una stalla fa parte di un complesso ampio e molto costoso. Oppure trovarsi... Poi l'agibilità per... trasformarla in casa non è facilissimo, diciamo. Sì, appunto, anche perché le ristrutturazioni costano tantissimo, ci sono tante regole, tanti costi. Quindi una casa con le ruote, con le case con le ruote. Sì, oppure un prefabbricato, fosse possibile, però anche quelli so che hanno delle regole. Comunque trovare un campo o in affitto ventennale, chiaramente che non mi mandi via dopo, o comprarlo, quindi un campo non uso... Da costruire un campo semiagricolo. Guardi, io non voglio infrangere il suo sogno, ma una persona come lei è abituata a vivere in una dimora d'epoca con vista su capolavori del Palladio e cose del genere, in una specie di roulotte da zingaro, secondo me non ce la vedrei molto bene, però magari uno cambia abitudini di vita, è un tentativo che può fare, può affittare un camper e farsi un giretto, vedere come è bello svegliarsi la mattina e dover uscire con la tanica per cercare l'acqua per farsi la doccia. In bocca al lupo, Eddie. Nicola. Nicoletti, buongiorno. Buongiorno. Nicola, chiamo da Latina. Sì. Innanzitutto approfitto per salutare il mio amico e presidente Pietro Membri, perché anche io sono un amministratore. Sono è stato appena smembrato, nel senso che l'abbiamo salutato. Era il presidente della NACI. Certamente ci sentirà per radio. Le ultime telefonate che ho ascoltato... Lei è anche un amministratore di condominio, è collega di Pietro Membri. Sono un amministratore di condominio. Sì. E queste ultime telefonate hanno proprio il sentore di quello che è il periodo in cui stanno vivendo gli italiani. E io per questo questa mattina mi sono fatto questa domanda. Era qualcosa che sentivo nell'aria. Vediamo se lei mi può dare degli elementi di conferma. Purtroppo si dovrebbe ritornare, perché ad oggi non tutti gli italiani si possono permettere di essere proprietari di appartamenti. Bisognerebbe ritornare agli anni 50, dove c'erano i proprietari di immobili e tutti stavano in affitto, tutti tranquilli, tutti in regola, le regole erano rispettate. Nel momento in cui tutti siamo diventati proprietari di appartamenti, ci rifugiamo in questo parallelepipedo e la prima cosa che facciamo è essere in guerra con il nostro vicino. Ecco, vediamo se lei mi aiuta. Scusi Nicola, perché è importante. Io giorni fa vidi un servizio sulla situazione in Spagna. Uno dei motivi di maggior crisi è che in tempi passati c'erano mutui molto agevolati, tutti si compravano casa, poi quando c'è stata la crisi naturalmente tutti hanno dovuto ridare alle banche le case che si stanno comprando perché non si potevano più permettere la rata del mutuo, quindi c'è un'infinità di appartamenti costruiti sfitti. La stessa cosa sta accadendo in grandi città italiane, dove continua a costruire questi appartamenti, ma sono appartamenti che nessuno acquista, sono messi in vendita ma nessuno acquista. Lei mi fa capire che c'è stato uno slittamento proprio dal punto di vista dei desideri. Mentre una volta avere una casa significava avere comunque una casa, cioè avere un tetto, delle pareti, vivere felici e vivere senza avere l'angoscia di non potersi permettere il luogo in cui si viveva. Poi a un certo punto tutti a pieno diritto hanno detto no, la casa deve essere di proprietà perché almeno abbiamo qualcosa di nostro, a lasciare i figli e via dicendo. E lì è iniziato il problema. Il nostro DNA esiste ancora. Il nostro primo obiettivo è comprarsi la casa. Sì. Però purtroppo ad oggi non tutti ce lo possiamo permettere, perché come ho sentito prima i due amici hanno comprato una bellissima casa, avranno fatto dei sacrifici, sono entrati in questa bel fabbricato, innanzitutto avranno avuto già problemi con i loro vicini, la signora li chiamava non posso stare più vicino agli animali, e soprattutto come sono arrivati le spese straordinarie, anche perché un immobile non ha il modo perpetuo, un immobile avrà bisogno di essere riparato, avrà bisogno di periodicamente risanare le facciate, che periodicamente si possono, ci facciamo vecchi tutti, si fa vecchio un cornicioni, facciate, tetti, terrazzi condominiali, noi abbiamo, impianti. Noi amministratori abbiamo terrore di affrontare quelle che ad oggi si chiamano i cosiddetti lavori straordinari, che possono essere anche di lieve entità. Anche bisogna fare le gare, ci vuole la sicurezza. Gare, ma abbiamo terrore perché abbiamo problemi nella riscossione delle quote, perché non ce lo si può permettere. E tante persone hanno difficoltà, perché le difficoltà esistono, e poi andare a riparare un qualcosa che può far comodo a tutti, è questo che ci dà fastidio, è un nostro DNA, è una nostra peculiarità, forse tutta italiana. Se dobbiamo spendere dei soldi per la nostra abitazione forse li spendiamo. Se uno dice perché devo mettere soldi per il cornicione che non è nemmeno nella facciata, non mi interessa, magari io faccio dall'altra parte. Esattamente, non capendo che è un bene comune, fa parte di una parte comune della, perché noi non sappiamo stare insieme agli altri. A noi ci dà fastidio il nostro vicino. Ho sentito prima i cattivi odori, chi cucina, chi alle 8 di mattina fa il ragù. Sì, quello l'ho detto io, purtroppo è il mio problema. Questo purtroppo accade. Sì, sì, chiudo le finestre, però il povero Fabrizio Intonti, che sta all'altra parte del vetro, è stato costretto a fare una foto della finestra di casa sua, che praticamente aveva delle tende, la vicina stendeva le lenzuola tranquillamente all'appartamento di sopra e rendeva buia la casa di Intonti. Intonti, non avendo bisogno di tende in più, alla fine le ha fotografate col telefonino, è andato tutto, signora, le faccio notare che lei mi oscura casa. Dice, ah, non credevo, mi sembrava impossibile, la signora non pensava non che... Non dimentichiamo che negli ultimi tempi c'è una globalizzazione anche con delle persone... Sì. Provenienti da altri paesi. Devo dire, guardi, lo dico con grande leggerezza, ho avuto 2 anni d'inferno per una famiglia rispettabilissima che amavo tanto, proveniente da un'area del Centro America, che la mattina alle 6 facevano il loro piatto tipico di riso e fagioli bruciati, e dal piano terra dove stanno loro arrivava al 7° piano. Siamo alle 8 di mattina, si chiama l'amministratore e lo si informa che c'è poco da fare lì. Lì c'è poco da fare, però il rifugio poi è chiamare l'amministratore e avvertirlo, dico, chissà poi l'amministratore ma non c'è niente da fare, quello non esiste, fa parte dell'umanità. Cosa possa fare? Nulla. Purtroppo è questo. Noi come associazione, Pietro Membri lo ha detto, noi qualche anno fa abbiamo fatto anche un piccolo vademecum con l'ordine del notariato. Questo perché? Perché gli italiani, circa il 75-80% degli italiani, vive in condominio, però non conosce le regole. Io vengo da esperienze arbitrali, io faccio arbitro di calcio oltretutto, e diciamo sempre che gli italiani, il gioco principe è il gioco del calcio, ma non tutti gli italiani conoscono le regole del calcio, tant'è che durante la settimana abbiamo, se ne parla dei rigori o fuorigiochi. Quindi vorrebbero loro comportarsi come proprietari di una palazzina affogata in un bosco e circondata da una muraglia, in realtà stanno in un appartamento, in un condominio, che devono condividere alcune cose con altre persone, e questo è molto difficile e aumenta il carico delle angustie dei proprietari di casa. Ma vedo che sulle tasse non paga nessuno, evidentemente è una botta talmente forte che ha completamente reso incapaci di reazione i nostri ascoltatori. Prima di tutto bisogna distinguere la manutenzione ordinaria dalla manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria è quella che fa riferimento alla sostituzione delle finiture dell'organismo edilizio. Penso quindi al rifacimento dei pavimenti, piuttosto che la tinteggiatura, la rasatura dei muri, la sostituzione degli infissi esterni. Ecco, in particolare per questa tipologia di opere bisogna fare riferimento e verificare la congruità di questo tipo di lavori con quanto definito all'interno del regolamento condominiale. Questa tipologia di opere di manutenzione ordinaria non richiede... È dolorosissimo elenco di operazioni da fare per un proprietario di casa. Lo fa Luca Grassi dell'Asso Imprendilens, preso da YouTube. Ricorda che oggi mettere mano a una casa non è più come una volta. Si chiamano 2 umarell che vengono lì con il berrettino fatto di carta di giornale, si danno un po' da fare, uno gli mette i soldi in mano. No, bisogna aprire un'infinità di inizio dei lavori, bisogna fare denuncia, ci vuole personale specializzato, ogni liretta che si paga deve risultare assolutamente. Perché? Perché ci sono delle responsabilità, perché gli impianti vanno fatti a norma, chi fa l'impianto deve essere adeguato a fare quell'impianto, e anche gli impianti fatti a norma, anche fatti a regola d'arte, a volte danno problemi, quindi bisogna reintervenire, rirompere tutto. Questo fa pensare a molti degli ascoltatori che ci stanno chiamando che forse sia meglio scegliere una soluzione più soft. Un'ascoltatrice vorrebbe vivere in una sorta di carrozzone a rotelle, una casa prefabbricata, qualcun altro ha preferito vendere ed essere inquilino. Cominciano a Sorgere idee di leggerezza, di casa non più pesante, non più appesantita tanti oneri. Quello che sembrava oggi il massimo sogno raggiungibile comincia a essere gravato da troppe angosce, da troppe angustie, da troppe preoccupazioni. E forse uno pensa, ah, quanto sarebbe bello avere una casetta di legno in mezzo a un bosco, in un posto aperto. Quando sei stufato, prendi, la fai pezzi, ci fai un bel fuoco, te ne fai un'altra da un'altra parte. Giorgio, buongiorno. Ciao, buongiorno Gianluca. Sì. Guardi, io una quindicina di anni fa ho lavorato alcuni anni in una multinazionale, no? E lì ho avuto proprio la prova di come il fatto di essere proprietari della casa sia una fissazione tipica soprattutto in noi, perché il mio diritto superiore, che era un inglese, il direttore finanziario, era un inglese che aveva più o meno la nostra età, quindi 35 anni di allora. Quando quindi eravamo amici, ci frequentavamo anche al di fuori del lavoro, ma veramente non concepiva proprio, nella sua mentalità non comprendeva il fatto di doversi indebitare per 20 o per 30 anni per fare un mutuo per acquistare una casa. Magari poi erano persone anche loro che di affitto spendevano di più, magari spendeva 2 milioni al mese di affitto, oppure spendeva 10 milioni per andare in vacanza in Australia, mi ricordo. Però proprio il fatto di legarsi con un mutuo per 20 anni, per 30 anni, era proprio totalmente al di fuori della sua mentalità. E io, conoscendolo bene, conoscendo anche altre persone, sempre della sua famiglia, io penso che dipenda proprio da come siamo fatti, perché noi siamo gente magari più stanziale. Gli anglosassoni invece sono gente più portata all'avventura, e per loro vivere, io mi ricordo proprio per lui in particolare, per loro vivere in Canada o in Australia o in Italia o in Sudafrica non cambiava proprio niente, era esattamente la stessa cosa. Quindi quello che dicevamo all'inizio, noi stiamo riflettendo su quella che è stata una caratteristica che ci ha accompagnato per vari decenni, quella di avere il nostro rifugio di mattoni costruito, stabile, sempre quello, un'immagine statica di esistenza. In realtà ci sono modelli di vita molto più elastici. Oggi sto in una casa, cambio, vado in un'altra città, mi trovo un altro lavoro, ma questo prevede comunque un'elasticità di strutture, di mercato immobiliare che non sempre è così facile dalle nostre parti, trovare una casa adeguata e trovare un lavoro adeguato. Giorgio, è caduto, allora andiamo avanti, leggo qualche sms, è caduto l'ascoltatore, abbiamo un altro ascoltatore che pure è caduto, vi leggo qualche sms, un ascoltatore mi dice che c'è un boom di vendita di camper. Dice, sei pensionato, vendi la casa, vai in estate ai monti, l'inverno al mare, risparmi sul riscaldamento. Un altro ascoltatore mi dice, ma lei non sa quanto costi in realtà parcheggiare un camper in una zona vicino alla città, in un camping. Quello del camper non può essere una soluzione, non siamo noi popolazione che si adatta a vivere nomade. No, noi dobbiamo avere la nostra casa. Pio, buongiorno. Buongiorno, ciao. E io chiamo da Napoli. La mia esperienza è questa, 15 anni fa stavo acquistando la casa dove abito, al centro storico di Napoli, praticamente per un vari disguidi non l'ho comprata, quindi sono andato in affitto nella stessa casa. Adesso dopo quasi 15 anni dovrò andare via, perché praticamente la situazione condominiale si è messa talmente male, anche a livello di non solo abitativo ma anche per quanto riguarda i miei i rapporti, mi faccia qualche esempio, ci faccia capire qual è il livello di tensione. Ma la tensione è questa, si è aperto un circolo culturale che tranne quello che sia culturale. Cioè che cos'è, un casino, cos'è? Ma sì, più o meno. Cioè un mignottaio continuo. All'esterno, essendo il centro di Napoli, lei ha forse non so se la conosce. Cioè, ci ho fatto due mesi di militare. Perfetto. Allora, quindi dove ci sono i pastori, dove c'è sì. Il centro di Napoli, la conosce. Lì sono tutti vicoletti, quindi praticamente lei basta che apre una finestra, apre un balcone, apre una qualsiasi cosa, sono case grandi, però qualsiasi cosa le apre praticamente ce l'ha in casa queste persone. Si trova in casa, sì. Se le ritrova in casa, perché praticamente sono vicoletti, non è, anche se non appartengono al suo condominio, ma comunque è all'altro, oppure per il strato. C'è una promiscuità che fa parte però del modello abitativo, chi sta lì sa che si vive così, la casa, il quartiere, il luogo. Sì, su questo sono d'accordo, io sono nato in quei quartieri e prima comunque non era così. Era molto diversamente, invece adesso ecco siamo alle prese con tutti questi locali, non solo, famiglie particolari, famiglie dove casomai ci sono, non so, due famiglie insieme, oppure non so, il marito è separato, c'ha la compagna che è straniera, insomma, varie situazioni. Vabbè, quelli sono fatti suoi, non è che dovrebbe darle particolarmente, sono fatti, non so. No, è chiaro, però comunque... Sì, è cambiato, è cambiata, e quindi lei cosa, quale soluzione è arrivata? Che preferisce stare in affitto e poter cambiare quando vuole? Sì, perché a questo punto sono io invece venivo da una famiglia radicata del centro di Napoli. Quindi anche lei in fondo conferma quello che era una nostra ipotesi all'inizio. Sì. Sono d'accordo che a questo punto, anche se nella mia idea era radicata la questione di dover avere una casa propria, adesso io sono convinto che invece è meglio non avere... Si sta ripensando. Ma ci ho già ripensato, perché io sto cercando casa, in effetti sto andando via. Sentiamo Giuliano in conclusione, grazie Pio. Giuliano. Buongiorno. Vediamo se anche lei ci dà un contributo rispetto a quello che noi ipotizzavamo all'inizio. Sì, ho passato varie fasi. Da piccolo ho vissuto in un paese piccolo, dove il vicino di casa era anche il vicino nel senso materiale, perché magari una stanza della mia casa stava sotto la stanza della sua casa che aveva il tetto, no? Le case costruite una addosso all'altra. Del vicino si coglieva tutto, dal momento del concepimento fino al rantro della morte, certo. Tutto. E lì mettere a posto il tetto era utile, necessario. E adesso cosa fa? Stiamo concludendo. Poi sono andato in affitto e avevo la difficoltà di non poter aggiustarmi la casa come volevo. E adesso? Sono diventato proprietario e mi sono accorto che bisogna cooperare molto di più, cosa che è difficile. E quindi qual è la soluzione migliore? E adesso sono tornato in affitto. In affitto, ecco, siamo arrivati alla conclusione. In fondo l'ipotesi era abbastanza corretta. Avere una casa, essere proprietari è un onere, non è detto che sia un male, però è un peso in più rispetto a quello che era percepito solo qualche tempo fa. A domani.